Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Rispetto del clima ancora natalizio, vorrei proporvi oggi, in questo lunedì, a cavallo tra Natale e Capodanno, un argomento vagamente hard. Sapete bene quanto spazio si sia dedicato negli scorsi mesi a Balotelli e alla, a parer mio, violenza morale, verbale, razzista evidentemente, dal mio punto di vista. Quanto abbia dovuto subire questo ragazzo. Poi le tesi sono varie, c'è chi dice che se ne va a cercare col lanternino e certamente non ha torto se parliamo di insulti, se parliamo di di eccessi verbali semplici. Io trovo, ho una convinzione e penso che quando c'è qualcosa di razzista in un grido, in un insulto, in un coro, immediatamente si fa un salto e questa violenza verbale va rubricata in un'altra maniera. Devo dire che ho fatto un inventario in questi giorni di messaggi, mail, lettere a vario titolo arrivate su questo argomento in questi mesi e la maggioranza delle persone, una buona maggioranza, abbastanza robusta, la pensa alla stessa maniera, il che non significa evidentemente che si coltivi il pensiero unico. Un ascoltatore tra i tanti che non la pensano a questa maniera intervenne un mese e mezzo fa per parlare del caso Balotelli e per invece vederla in un'altra ottica, ma soprattutto per esprimere il suo stupore, per il nostro stupore, e cioè dicendo: ma adesso scoprite che cosa è davvero il tifo in Italia, cioè quanto si è degenerato, che cosa accade nelle curve, chi sono davvero gli ultra, eccetera eccetera. Mi colpì per lo spessore quell'intervento, grazie all'aiuto di Mamma Rosa al centralino, insomma, siamo riusciti a ricostruire un contatto e diciamo che un minimo rifiuto evidentemente l'ho ancora, perché si trattava di un signore che si chiama Giovanni Francesio e che ha scritto 2 anni fa un libro, Tifare contro, una storia degli ultra italiani, edito da Sperling e Kuffer. L'eleganza del soggetto è questa: che chiedendo l'intervento di trasmissione non ha assolutamente detto io sono quello che è, oppure, ma è intervenuto come un ascoltatore qualunque e poi toccato a noi ricostruire questa vicenda. Allora, Giovanni, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, buon Natale in ritardo, grazie, buon anno in anticipo. Dunque, io, se non ricordo male, nel suo primo intervento, e ripartirei da lì, lei sostenne che, contrariamente appunto alla mia tesi, che non, se c'è razzismo viene dopo e comunque forse non è nemmeno razzismo, ma è semplicemente un'altra cosa. Ricordo male? No, ricorda benissimo. Io sulla vicenda Balotelli, a me vengono 2 riflessioni da fare, che non sono particolarmente intelligenti, ma sono solo il frutto di una lunga consuetudine con le curve degli stadi italiani e con gli stadi italiani in generale. La prima è che io sono sempre molto restio ad applicare allo stadio, a quello che succede nello stadio, le categorie che si applicano fuori, nella vita normale, quindi anche le categorie che hanno a vedere con la politica e le categorie che hanno a vedere con le degenerazioni della politica, come il razzismo, perché penso che la causa scatenante delle cose più becere e turpi che si sono sentite negli stadi italiani quasi mai abbia un'origine politica e ideologica. La politica e l'ideologia, anche nelle sue versioni appunto turpi, sono delle sorte di cappelli che si mettono sopra altre pulsioni, che sono la rivalità calcistica o più spesso la rivalità delle tifoserie, degli ambienti, dei climi, come nel clamoroso caso oggi in Italia. Certamente, per le cose che sono successe, una delle rivalità più accese è quella tra Inter e Juventus. Sì. E credo che Balotelli sia finito dentro qui, per cui Balotelli è diventato in qualche maniera un simbolo anche della nuova Inter, dell'Inter che ha stravinto poi tutto. Gli juventini sappiamo cosa pensano di Calciopoli, di tutto quello che è successo. Balotelli è un simbolo di questa cosa. Balotelli come diceva lei prima, a me non piace il termine, se le va a cercare, però certamente non fa niente per rendersi simpatico agli altri, alle altre tifoserie, risultato che ovviamente si prende di mira Balotelli, e cosa si fa per prendere di mira Balotelli? Gli si dice che è negro, questo è il tutto, è molto banale, anche un pochino deprimente, senza un pochino, anche deprimente. Deprimente. Sì, nella sua banalità, però io credo che sia così. Detto questo, la cosa che sorprende è che ci si svegli per Balotelli, nel senso che queste cose, ecco, l'unica appunto che posso fare alla sua introduzione è che secondo me il tifo negli anni non è degenerato, io credo che sia andato migliorando il tifo, la cifra del tifo italiano, anche sul fronte della civiltà, era molto peggio, noi non ci ricordiamo niente, viviamo sul fronte del tifo violento un eterno presente, ma Garanzini nel 78, il giorno che è morto Paparelli allo Stadio Olimpico, colpito da un razzo lanciato dalla curva sud, dalla curva nord, i romanisti dissero è partito il razzo perché i laziali avevano esposto lo striscione Rocca Bavoso, i morti non resuscitano. Questo era lo striscione, 1978, e una cosa del genere oggi probabilmente darebbe molto, e all'epoca la cosa venne fuori perché ci scappò il morto, perché altrimenti sarebbe passata completamente sotto silenzio. Oggi almeno l'ipervisibilità, le cose più truci le porta su tutti i siti, su tutti i giornali. E vengono a galla, se non altro. Esatto, se non altro vengono a galla, ma gli stadi italiani negli anni 70, 80, fino a Spagna, fino al 95, fino alla morte di Spagnolo, sono stati, se ne sono viste di tutti i colori, ricordiamoci cosa sono state certe tifoserie, le brigate gialloblu a Verona, gli stessi laziali, cosa è successo in certe curve, nella curva della Roma, insomma parlare di degenerazione oggi a me sembra esagerato, detto, e aggiungo anche che questa cosa qui però oggi si potrebbe fermare veramente in poco tempo, perché se noi abbiamo fatto negli anni decine di norme, di leggi, di decreti, ma lei si ricorda il casino che era saltato fuori quando i laziali esposero striscioni onore alla Tigre Arcan? Sì, quello lo ricordo bene. Decreti, leggi, d'ora in poi si sospende, d'ora in poi non è più... Niente, lettera morta, tutto è continuato come prima. Questo è vero, sai cosa... Avendo adesso, a distanza di 2 anni da quando l'avevo ricevuto allora da Spelling e Kufer, avendo letto questo suo libro, che ha dei punti molto, molto forti oggettivamente, sa cos'è che non mi torna? Che lei rivendica, no, rivendica, insomma, racconta, ricostruisce, ma in un certo senso anche rivendica la sua esperienza da ultra precedente, in una sorta di vita precedente, mi pare di capire. Ma sì, a un certo punto si invecchia e certe cose che si fanno da giovani poi non è più, se non altro esteticamente sostenibile, farle da vecchia. Mettiamo pure, ma... Dopodiché io sono uno che continua ad andare in curva, però non vado quasi mai in trasferta, e la trasferta è dirimente. Vabbè, quindi evidentemente c'è un po' di differenza, e ho letto cosa vuol dire andare in trasferta da ultra, cioè che cosa comporta e a che cosa può preludere, anzi generalmente prelude. Però gli ultra non sono come lei. Ma quelli che emergono non sono come me, io le posso garantire che ci sono tantissime persone che sono come me, ma il che non significa, io sono uno dei tanti, io ero un ultras veramente attivo, che andava sempre in trasferta, che seguiva la squadra proprio alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, e come tutti gli altri io sono sempre stato zitto di fronte alle cose che sapevo, che vedevo, si andava in trasferta e c'era la gente armata, lo sapevamo tutti, i coltelli giravano e siamo stati tutti zitti. Ma non mi dica che lei era armato. No, io non sono mai andato in giro armato, e non, io guardi, ho fatto... Perché secondo me c'è un'incompatibilità assoluta tra la cultura... Ho fatto centinaia di trasferte e le ho sempre prese solo dalla polizia, non ho mai picchiato nessuno e non sono mai stato picchiato da altri ultras, quando le ho prese sempre dalla polizia. Detto questo però sono stato zitto, l'omertà è una colpa. Io sono uno di quelli che non ha fatto niente per cercare di isolare i violenti. E questo è inutile girarci intorno, come me migliaia di altri ragazzi italiani che vivevano la curva come un luogo di aggregazione libero, il più libero che abbiamo conosciuto. Io sono nato nel 1970, quindi finita la politica, finito tutto, il posto in cui io ho vissuto la mia adolescenza e dove ancora oggi io vedo i miei amici è la curva dello stadio, e lì mi sono sentito sempre libero, mi sono sempre sentito felice in curva, senza essere un violento, senza essere un razzista, senza essere, dopodiché ovviamente se fai quelle cose, se fai quella vita, finisci in mezzo a situazioni, capita, ma insomma non si sarebbe potuto rimanere più vicini alla goliardia che alla criminalità, ecco. Anche se il confine è sempre stato molto labile. Guardi, io non vorrei oggi toglierle una patente, un'etichetta di cui lei evidentemente va fiero, ma sì, secondo me, ecco, no, per l'amor di Dio, e quindi non voglio mancare di rispetto, ma uno che parla, ragiona, e tra l'altro scrive a questa maniera ed esprime questi concetti, io non riesco a definirlo ultra, non so come dire, no? Cioè è una questione di etichetta, se vogliamo. Però guardi, facciamo così, dato che siamo già arrivati alla metà almeno del nostro appuntamento, che mi pare particolarmente piacevole e interessante per chi lo sta ascoltando, facciamo un intervallo canonico, che è quello per aggiornare dalle strade. A tempo di sport. Torniamo in compagnia di Giovanni Francesio, autore di Ti fare contro, una storia di tre italiani uscito un paio d'anni fa da Sperling e Kupfer. Io vi garantisco una lettura che mi ha molto colpito, mi ha molto impressionato, e molto di più mi sta colpendo questa conversazione con l'autore. Lei scrive ad un certo punto, non nel preambolo, ma insomma comunque nelle prime pagine, in 40 anni di esistenza degli ultra non è mai stato fatto alcun serio approfondimento sugli attori, sui protagonisti del fenomeno, cioè proprio sugli ultra. Lo Stato italiano si propone di sconfiggere un nemico che non si è mai preoccupato di conoscere. Ecco, questa per me è una denuncia molto civile, ma molto forte anche. Ma sì, che poi si basa su quello che è successo altrove, nel senso che noi da anni blateriamo di modello inglese, come se il modello inglese fosse stata una roba cascata dal cielo, così. Invece no, il modello inglese è il frutto, che peraltro ha tutta una serie di cose discutibili, nel senso che ad esempio secondo me in Germania hanno fatto anche meglio di quanto hanno fatto in Inghilterra, però non c'è dubbio che in Inghilterra... Hanno fatto meglio, mi scusi... Così, a grandi linee, perché hanno salvato un po' di dimensione popolare. Allora avevo capito giusto, nel senso che in Inghilterra comunque hanno anche innalzato i prezzi in una maniera tale che hanno tagliato fuori un ceto sociale ben preciso. Esattamente, perfetto. Hanno trasformato il calcio da spettacolo popolare a spettacolo elitario, fondamentalmente. Andare allo stadio è una roba da ricchi, e ci vanno più o meno solo i ricchi, anche quelli che si picchiano ancora, perché qualcuno in Inghilterra si picchia ancora, non c'è, cioè tutto la working class di cui facevano parte la maggior parte degli hooligans, tutta una cosa scomparsa, spazzata via, però questi hanno studiato, si sono messi lì, sono andati a cercare di capire che cosa succedeva davvero nelle curve, chi c'era, chi non c'era, perché c'erano certi comportamenti, e poi il pragmatismo, la concretezza, perché tutti pensano che il modello inglese inizi dopo l'Eisel, e non è vero, inizia dopo Sheffield. Perché sì. Sheffield, quando morivano, erano 90 tifosi del Liverpool, cioè, schiacciati. Il disastro, certo, toccato a loro, esatto, all'interno del loro campionato. Esattamente. Vero. E lì dissero, perché succedono queste robe? Perché i nostri stadi fanno schifo. No, sono di legno, sono vecchi, sono brutti. Quindi cosa si fa? Si rifà tutto. E questo, la cosa incredibile, se si pensa all'Italia, è che gli inglesi, infatti, albo d'oro delle coppe europee alla mano, dal 90 al 2000 non ci sono quasi mai. Perché? Perché invece di comprare giocatori costruivano stadi, cambiavano un modello, cambiavano un sistema. È vero. Invece noi questa cosa non l'abbiamo mai fatta, i nostri stadi sono i più brutti d'Europa, età media degli stadi italiani 64 anni, cioè prima del fascismo, questa è l'età media degli stadi italiani, i risultati sono quelli che sappiamo, cioè che in Italia c'è un contesto che facilita la violenza, poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti oltre agli stadi. E secondo me l'approfondimento sugli ultras, su chi c'erano le curve, su che cosa si poteva salvare, su quali potevano essere le persone, i gruppi, gli aspetti su cui cercare di stabilire un rapporto invece di criminalizzare manu militari un intero movimento giovanile che alla fine della fiera ogni domenica mobilita 100, 150, 200, 300 mila ragazzi, nessuno ha mai capito quali sono, schiacciati verso la criminalità. Oggettivamente sì. Dopo che gli ultras ci abbiano messo del loro, non c'è dubbio. Ecco, però, mi scusi, per evitare di iscrivermi anch'io agli ultras ascoltandola, perché lei ha una capacità persuasiva, ce l'ha già per iscritto, ma insomma, oralmente, questo è anche superiore. Quindi per evitarmi questa deriva alla mia non verdissima età, no? mi spieghi, risponda a questa domanda. Ma perché ultras? Cioè, che cosa vi muove a voler diventare protagonisti di un avvenimento in cui i protagonisti sono quelli che giocano? È questo che io non ho mai capito e che non riuscirò mai ad accettare. Intendiamoci, non sto parlando di una persona che ragiona come lei, eh? Io parlo di un movimento che se non ha una presenza e possibilmente un'immanenza, ecco che si ribella, ecco che si scatena, ecco che si cosa. Ma perché non si accetta il ruolo di spettatore, volendo anche di comparsa, rispetto ad un evento che coinvolge voi, noi e chiunque? Ma allora, secondo me questo è un discorso abbastanza complesso, nel senso che... Se è una sciocchezza lo dica pure. No, perché... anzi, io credo che questo sia il punto fondamentale. E secondo me è il clou, esatto, per me, tutto, è l'interruttore. Però, allora, guardi, parto da una cosa che sembra non c'entrare niente. Io ho scoperto di recente il football americano dei college, che vedo in televisione, su Sky, non quello dei professionisti, quello dei college, e ho scoperto che lì si deposita il campanile, no? E l'America, sì, che noi abbiamo sempre vissuto come il posto dove lo sport ha tutte le sue cose al suo posto, il pubblico fa il pubblico, i giocatori fanno i giocatori, i giornalisti fanno i giornalisti, lì nel college, nei stadi strapieni di 100.000 ragazzi, che accidenti se sono protagonisti, sono i protagonisti. Un pochino questo negli ultras italiani e anche europei, dappertutto, c'è questo aspetto, il fatto che senza di noi, c'è, guardi, un documentario fatto sugli ultras dell'Atalanta, si intitola, e il titolo è splendido, è molto significativo, Farebbero tutti silenzio, lo si trova su YouTube. Appunto, senza di noi farebbero tutti silenzio, senza di noi lo spettacolo non ci sarebbe. Gli ultras, uno non è che nasce ultras, io come tutti quanti ho iniziato ad andare allo stadio con mio padre nei distinti, non guardavo la partita, guardavo la curva, appena ho potuto sono andato in curva da solo, perché faceva più rumore, perché c'era più bello, c'era più calore, perché sì, esatto, questo... perché si partecipa, perché c'è la gente come te, perché ci sono i ragazzi, e come dicevo prima la curva è uno splendido luogo di aggregazione, spettacolare a tratti, quando le squadre vanno bene, in le partenza, curve diventano un posto divertentissimo. Il problema degli ultras è che il problema non è non essersi accontentati di essere spettatori passivi, ma aver voluto essere spettatori colorati, attivi, partecipare, essere parte dello spettacolo. Il problema degli ultras è quello di non essere stati in grado di limitarsi a questo, ma di invece non riuscire mai a uscire dalla logica dello scontro. Certo. Lo scontro con l'altra tifoseria. No, questo senza questo dubbio è il problema. Infatti, che è poi vero, è diventato scontro con la polizia, peggiorando ulteriormente la situazione, certo, ma questo non solo per colpa degli ultras. Il punto è che a partire dagli anni 70 un po' il campanile, che è sempre noi italiani, per noi il campanile è... Ah, ma lei lo ricorda anche storicamente, con scontri gravissimi negli anni 20-30, esatto, tra bolognesi e genoani, esatto, eccetera. Poi cito Brera, che parla di Cita Brera, come tagliate. No, come no, come no. Il campanile da noi è sempre stato una cosa ferocissima, che poi dopo, quando facciamo le sagre d'estate e mangiamo gli agnolini, diventa tutto bello, che bello le tradizioni popolari, però è la stessa cosa. Alla fine il campanile è il campanile, le città italiane normalmente si detestano, e al campanile si è aggiunto la passione calcistica, si è aggiunto il fatto che negli anni 70 lo scontro era, per altri motivi non sportivi, una cosa molto più all'ordine del giorno di oggi, e quindi così si è... tutto questo è confluito negli ultras, nelle curve, nei gruppi ultras, ed è poi tracimato nella tragedia, nelle varie tragedie. Nelle varie tragedie che lei ricorda molto, sì, bene. Dato che ci manca, che abbiamo un minuto ancora a disposizione, un altro capitolo mi è molto interessato, tralasciandone altri, e di cui poi parleremo magari in un periodo più adatto all'Ard, no? Che non sia quello natalizio, cioè quello che lei pensa della polizia, di come la polizia ha affrontato spesso e volentieri vicende o drammi come questi. eccetera. Movimento giovanile per eccellenza, lei scrive, a un certo punto gli ultras si impadroniscono con grande rapidità a ridosso del 2000 delle nuove tecnologie, in particolare del web. Beh, con questo stiamo facendo i conti. In che senso? Stiamo facendo i conti, perché mi pare che proprio attraverso il web, non soltanto gli ultra del calcio, anche altri ultra sviluppino situazioni, diciamo, di pericolo, situazioni... Sì, questo adesso io poi lì in quel paragrafo spiego anche che i siti web cosiddetti ultras bisogna saperli leggere, sapere quali sono, perché sì. È chiaro che se uno va su un muro dove scrivono dei ragazzini di 12 anni che si divertono a dire napoletani di merda, Milano in fiamme, vabbè, quella fa parte del livello del nostro paese, forse non solo. I siti ultras veri, dove parlano gli ultras sul serio, io ne cito uno per tutti perché è nettamente, largamente di un altro livello, aesromaultras.org è diventato uno strumento di controinformazione ultras, e io credo che la verità si trovi molto più spesso su aesromaultras.org che sui giornali o sulle televisioni. Cioè, facciamo il caso il più recente della trasferta. Lei non mi sta facendo un'apologia di reato? No, approfittando del fatto che io non mi intendo, assolutamente, non mi intendo di siti. Invito lei e chiunque a vedere quel sito, troverà delle cose che conosce raccontate sotto un'altra ottica che alla fine si rivela quasi sempre più convincente. La famosa Napoli, la trasferta dei napoletani a Roma, treni sfasciati, macchinisti picchiati, donne buttate giù dal treno, si è scoperto perché c'erano due giornalisti austriaci che non era vero niente, che non era successo niente. Per dirne una, in Italia nessuno sa chi è Eugenio Bortolone. Eugenio Bortolone è un ragazzo di 19 anni che è morto l'anno scorso nello stadio di Parma, era in trasferta, era un tifoso del Vicenza, è caduto da un parapetto nei nostri sicurissimi stadi a norma, si è spaccato la testa, è morto, ma siccome non si poteva fare demagogia, i giornali non hanno scritto quasi niente. Giovanni, siamo andati bene fino adesso. questa è una ferita aperta. No, la capisco. Eugenio Bortolone è una ferita aperta, perché capisco. Non si può morire così. No, la capisco e le dirò che condivido quest'ultima riflessione. Scusi il particolare personale, ero in quello stadio, in quel settore, 3 mesi prima, e con un mio amico, e tutti e due facciamo altri mestieri, abbiamo detto, certo che lì è pericoloso. 3 mesi dopo ci ha lasciato la pelle un ragazzo, hanno detto no, lo stadio era a norma, però adesso se guarda le immagini in televisione, i tifosi ospiti a Parma non li mettono più lì, li mettono in mezzo alla curva ospite. Combinazione. Giovanni, io ho l'impressione, il tempo è veramente scaduto, siamo anche già in lieve ritardo. Ho come l'impressione che proveremo a non perderci di vista. Sarei felice. Nonostante l'argomento non semplicissimo da affrontare, nonostante qualche altra considerazione. La ringrazio davvero di aver partecipato ad A Tempo di Sport. Grazie a lei davvero e grazie agli ascoltatori. Buon anno. Siamo arrivati all'intervallo, quello per l'aggiornamento dei mercati. A Tempo di Sport. Una pagina completamente diversa rispetto alla precedente, dagli eccessi del tifo e oltre, a una disciplina che continua invece a coniugare semplicità e fair play e che al massimo deve fare i conti con una crisi di crescita. Sto parlando del rugby, per riproporvi una lunga conversazione con uno dei suoi alfieri storici, Manrico Marchetto. Architetto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, ciao. Allora, stiamo parlando di Manrico Marchetto. Manrico è il nome del protagonista storico del Trovatore. Stiamo parlando di Manrico Marchetto. Stiamo parlando di 43, mi correggi se sbagli, 43 presenze nella nazionale italiana, di 21 mete. Esatto. Di 21 mete, il che significa che dietro a Cuttitta, che ne ha realizzate 25, a Paolo Vaccari che ha quota 22, a pari meriti con Checchinato, ci sono queste 21 mete di questo bioarchitetto. Certo, bioarchitetto. Bioarchitetto. E mi pare di capire che ci tieni molto quel bio, Sì, molto, moltissimo, perché il mio essere, il mio modo di pensare, sia come modo di vita, come presentarmi in giro. Sono un bio su tutto. Sei un bio sul mangiare, sul non bere caffè, non bere liquori, non a stare attento ai campi elettromagnetici. Sono bio, ecco. Mi piacciono le cose pulite in tutti i sensi. Grande, io su parecchie cose ti seguo, poi hai detto anche un po' di cose salutiste, lì ti seguo meno, ma insomma, vabbè, tu sei stato un grande atleta e non... Senti, io partirei, dato che qua davvero tante mail che vorrei un po' sottoporti, di cui vorrei discutere con te. Allora, ne arriva una dalla Marca, no? dalla vostra terra, insomma. Mi chiamo Denis, sono trevigiano e quindi sono geneticamente predisposto alla passione per gli sport minori. Sabato ho visto la partita, ma sinceramente quel rugby non è lo stesso che da anni io vivo qua in provincia. Non puzza, non è sporco del fango dei campi malcurati, non odora di pane soppressa né di vin brûlé. Mi sono divertito, non voglio passare da nostalgico, ma mi ha dato molto da pensare. Ho trovato splendida sta lettera. Direi che anche a me piace molto questa letterina che avete ricevuto, l'email che avete ricevuto, molto molto è cambiato da quando, naturalmente, da dilettanti come eravamo noi, siamo diventati semi professionisti o professionisti, però come tutti i cambiamenti dell'uomo e delle mentalità, lascia sempre qualcosa di amaro in bocca, e penso questo sia lo sfogo che ha avuto sto signore, è anche una cosa piuttosto giusta, la trovo. Quindi non è detto che si cambi poi sempre in meglio, Non sempre. Magari non in questo caso. Senti, la tua telefonata ieri è stata una telefonata, è partita da una precisazione correttissima, tra l'altro, che poi anche altri ascoltatori mi hanno nel frattempo inviato, e cioè io ho esordito dicendo che 9 naturalizzati su 15 in campo con la maglia azzurra mi sembravano un po' tanti, e tu mi hai detto però che è prassi nel rugby anche da parte di altre nazioni. Certo. Magari non in questa misura, dico io. Non in questa misura. Noi siamo italiani, siamo molto diversi da tutti gli altri paesi, molto diversi, in tutto. Uno è anche sul rugby. Sul rugby, ma nel senso che ci piace esagerare, insomma, se non capisco male. Ci piace esagerare, ci piace essere diversi, ci piace trovare l'escamotage per creare sì, certo, qualcosa. Allora, io ero partito da lì, avevo aggiunto en passant che pur non volendomi permettere di fare io la formazione degli All Blacks, insomma, c'era un po' la sensazione da parte invece di chi li conosce molto bene, gli attuali, che insomma, i titolari, o comunque oggi la parola titolare riserva non ha più lo stesso significato di un tempo, ma insomma i pezzi da 90 in campo fossero 3, 4, 5, non di più. Direi anch'io attualmente. Che numero è quello? E allora dicevo che paradossalmente era stato meraviglioso vedere quegli 80.000 a San Siro, soprattutto da un punto di vista partecipativo, le famiglie e tutto quello che c'è di bello, e che davvero c'era a levarsi il cappello. Però certo, mi ero chiesto, se l'Italia avesse giocato con tutti gli italiani e gli All Blacks avessero giocato con tutti i titolari, e noi beccavamo gli 80 o i 100 punti di scarto, quanti di quegli 80.000 sarebbero tornati la volta dopo? Questo non è una domanda facile rispondere, però a mio avviso una bella parte sarebbe ritornata. Perché? Perché quando tu vai in un ambiente dove ti diverti e non ti senti sicuro in tutti i momenti, da prima di entrare in campo a durante il match, all'uscita del campo, e hai magari la possibilità, come si fanno nelle altre nazioni mondiali, di avere una clubhouse che ti tiene i ragazzini prima della partita e durante la partita, che dai possibilità ai ragazzini di giocare fuori nei prati, nei campi attorno allo stadio, come può esserci in Scozia, al Marfield o al Newland in Sudafrica, o a Auckland, eccetera, eccetera, qualsiasi posto al mondo. Ci sono certe situazioni completamente anomale per noi, ma per loro è il naturale, cioè quello vivere, vivere il rugby, vivere la festa, vivere l'incontro come uno spettacolo, come stare assieme a questi giocatori e conoscere le difficoltà che hanno questi giocatori e rispetto che hanno questi giocatori, sia da una parte che dall'altra, prima per se stessi e dopo per gli altri, certo, per gli avversari. Certo, io penso che tu stia facendo un discorso perfetto, ma che, come dire, è un po' del rugby ancora di ieri, cioè, perché io credo che oggi il marketing sia entrato in maniera così greve nel mondo del rugby che ho l'impressione che questo spirito sì rimanga nella base di chi il rugby lo ama, ma che, allargando un pochino, come dire, la rosa degli utenti, magari non sia proprio fino in fondo come dici tu. Ma cioè, in parte io sono d'accordo, sono d'accordo in parte, perché naturalmente tu nel tuo passaggio chiaramente sei entrato nel terminologia marketing, come l'hai detto, una volta non c'era. Adesso tu sai benissimo che gli All Black sono uno dei primi 5 brand a livello mondiale per lo sport. Eccola, hai già parlato di te. Ma oggi così si parla, giustamente. È così, cioè non posso nascondermi dietro. No, puoi essere bioarchitetto finché ti pare, ma oggi la squadra è brand comunque. È questo il discorso. Cioè, posso cercare, cioè, lo spirito mio come giocatore è quello, però chiaramente vivo in un mondo dove se non c'è dietro un'immagine, non c'è dietro un ritorno pubblicitario, economico, eccetera, questo salta, non sta in piedi, non può stare in piedi. A proposito sempre della nazionalità degli atleti, non so, Giuseppe certo. Greci per esempio scrive: diversi neozelandesi anche schierati sabato non sono nati in Nuova Zelanda ma sono figiani, samoani, isolani. Molte certo. nazionali di rugby, è vero questo, anche le più blasonate schierano giocatori equiparati. La stessa cosa mi scrive Enrico da Padova: mi spiace dover dissentire con la sua considerazione di oggi, le nazionali di tutto il mondo annoverano giocatori che non sono esclusivamente indigeni, anche Francia e Inghilterra. E dipende, tu precisavi già prima, dipende sempre dal numero, cioè l'importante è esagerare, cantava Iannacci, no? Mi pare. Certo. E noi da questo punto di vista ci facciamo mancare poco. Poi c'è una mail che è di una riga, arriva da Montebelluna, è firmata Giampiero Bramezza e l'ho trovata deliziosa. Chissà come mai oggi, e lui si riferisce a ieri ovviamente, chissà come mai oggi che si parla di rugby gli interventi sono quasi tutti pacati e intelligenti. Sarà un caso? Si domanda. Questa è molto bella, perché... pacati e intelligenti. No, ma è vero, abituati alla fauna del calcio dove veramente ne senti... Guardi, quando si giocava, già all'epoca, si giocava con senza recinzione. Adesso in tutto il mondo, nei campi, non ci sono recinzioni. Sì. A fine partita hai l'arbitro che entra con i giocatori e va a festeggiare il terzo tempo con i giocatori. Il pubblico partecipa al terzo tempo in parte con i giocatori. Quindi è stare insieme e vivere la manifestazione, vivere l'evento tutti assieme. Perché la mentalità è questa, cioè è mettere la testa dove gli altri mettono i piedi, quindi uno sa il sacrificio che il rugbista compie durante l'incontro, certo. Sente le legnate che uno si dà, gli scontri fisici, quindi c'è il rispetto che è fondamentale per far sì che questo sport vada avanti, perché se una persona è pulita secondo me ha sempre il modo di proseguire, se ha un comportamento anomalo, chiamiamolo, rischia nel tempo di crearsi sia lui che gli altri, creare degli stati d'animo non sereni. Ma vedi, tu hai parlato del campo, ci aggiungiamo certamente, e ne hai parlato prima, l'humus, l'habitat, no, che c'è intorno, lo spirito di chi viene ad assistere, eccetera, eccetera. Io facevo un parallone col calcio, e quando tu hai esordito in questo ultimo intervento dicendo: da noi già allora non c'erano recinzioni, io dico che certe volte, parlando di calcio, invece le recinzioni servirebbero anche in radio, per dire, oltre che alla TV, a maggior ragione. Io, dato che ho tenuto la storia per dopo, perché secondo me ne vale davvero la pena. In che senso? Ma nel senso che questo evento, che ripeto è stato un evento, quello di San Siro, un evento fantastico dal punto di vista del richiamo, dal punto di vista del numero, della sensazione, del colpo d'occhio, anche dello spirito che si è creato, ma come dire, queste cose tendono sempre un pochino a cancellare quello che è stato prima, cioè sembra che prima di ora gli All Blacks in Italia o l'Italia non li avesse mai affrontati. Ti viene in mente una data per caso? Novembre 1979. 28 novembre per la precisione, quindi siamo vicinissimi al trentennale di questo evento che mi auguro festeggerete. Speriamo proprio di sì. Speriamo. Allora, ambientalo, dici dove siamo, dici contro chi giocate, i nomi degli italiani li ho già letti, quindi già dai cognomi Cioè, non stiamo parlando di Robertson, McLean, Gower, con tutto rispetto, come si legge oggi in formazione. Qui stiamo parlando di 15 indigeni. Sì, 15 indigeni, e abbiamo giocato a Rovigo il 28 punto di novembre del 79, la prima partita ufficiale della nazionale italiana contro gli All Blacks. Gli All Blacks veri. Veri perché li avevamo contratti con una selezione italiana chiamata 15 del presidente nel 77 alla Piana di Padova, dove il risultato era stato un 9 a 17, sì. Mentre la partita del Rovigo è finita 12 a 18 per gli All Blacks sempre. Esattamente. Noi davamo, come danno questi, il cuore, davamo tutto, e secondo me c'è una piccola differenza tra i ragazzi di adesso e loro, la fisicità. Sì. E poi devo fare anche presente che nel nostro gruppo su 15 giocatori 5 sono laureati. E questo rispetto a quelli di in bioarchitettura tutti magari no. Allora, Claudio Robatta, tallonatore, è insegnante di psicologia motoria all'università di Pescara attualmente. Elio, sì. De Anna è medico e assessore alla regionale in Friuli, sì. Fulvio Lorigiola, avvocato, Luigi Francescato, medico, e il sottoscritto. Ultimo intervallo di oggi per il traffico. A tempo di sport. Beh, una mail firmata Jacopo Righini, un tantinello dissacrante prima di ridare la parola a Marico Marchetto. So che il calcio è malato e che il rugby può dare tante lezioni al calcio, però in tutta sincerità il calcio è troppo più divertente del rugby. Non vorrei che invece di dare lezioni al calcio il rugby cominciasse a fare propri alcuni vizi del calcio. Questa è una riflessione seria, ripeto, firmata Jacopo Righini. Torniamo in compagnia di Marico Marchetto. Il rugby, d'altra parte, è sempre stato uno sport di college, no, se vogliamo, così è nato, certo. Britannie, no? A vario, certo, titolo. Adesso mi stai dicendo che ha perso un po' quella connotazione adesso? Sì. Secondo me sì, perché sì. Il discorso è per tenere i tempi, tenere i livelli che lo sport e i media pretendono da tutti gli sport, chiaramente ti porta a avere meno tempo per lo studio. Prendiamo tra con le pinze, perché meno studio? Perché hai un discorso economico che ti garantisce o ti fa pensare di poter sopperire il non lavorare, il non studiare con quel poco denaro che ti danno, perché anche attualmente i soldi sono relativi, cioè sono pochi che riescono a sistemarsi effettivamente, sì, nella vita. Quindi starei un po' attento nel prendere, ok, vado a giocare a rugby che risolvi i miei problemi, come può succedere in altri sport. Non sarà per caso, no, non sarà, questo è sicuro, ma pensavo un'altra considerazione: non è che per caso c'è meno tempo per lo studio anche perché serve più tempo per mettere su chili? Sicuramente fanno due allenamenti e mettere su chili lo fanno tutti, in tutti gli sport professionistici, non ce n'è uno che sia... No, mica solo nel rugby, per carità. No, in tutti, cioè io ho un amico che giocava con me, e poi medico privato, tra le cose, personale, sì, che fa le analisi per il CONI pre-gara o dopo gara, e quindi... ne parliamo spesso volentieri di questa cosa, e purtroppo tutti gli sport per ottenere determinati risultati hanno bisogno di un aiuto, e quindi l'aiuto sappiamo dove va a parare. L'architetto Marchetto, quando giocava, perché questo sui dati biografici non l'ho trovato, ho trovato quante partite hai giocato, ho trovato insomma tante quando hai debuttato, l'anagrafe, tutto. Non ho trovato peso e altezza. Allora, l'altezza 1,75, peso 82 kg. Uh-huh. E costanti nel corso della carriera? Sì, costante sulla carriera. Ecco, che insomma, magari è leggermente diverso da come succede oggi. Diciamo di sì, io so che con i francesi quando si giocava avevamo dei 7 ai 10 kg di differenza, perché loro già facevano palestra. gli All Black, io ho ricordi di aver parlato con diversi amici che sono rimasti tutti amici, gran sì. parte, e loro avevano una preparazione, un'età completamente diversa. Io ho degli amici che andavano a lavorare durante il periodo fuori studio, fuori gioco, nelle foreste, tagliare alberi per far massa, per far muscoli. Certo. Correvano nelle spiagge, nella sabbia, per aumentare la massa muscolare dei quadricipiti, eccetera. E quella è una mentalità e un modo di vita diverso dal nostro. Però adesso usano sicuramente qualcosa anche loro. Senti, architetto Marchetto, c'era ancora una domanda che mi stava a cuore, perché insomma, il rimando a 30 anni fa non è soltanto una curiosità statistica, è una scoperta per molti, ma molti dei nostri ascoltatori, perché poi beati loro che sono più giovani e che magari pensavano che in quegli anni gli All Blacks fossero irraggiungibili. Se una nazionale solo italiani era così competitiva 30 anni fa contro i veri All Blacks, allora siamo sicuri che noi in questi anni, come movimento rugbistico, dal punto di vista tecnico, siamo andati avanti? Perché mi sembra il contrario, eh? Dal punto di vista tecnico, secondo me siamo andati, ci siamo fermati o siamo andati anche un po' indietro. Perché non si bada più la tecnica individuale, si bada alla fisicità, la prestanza fisica. Cioè, tu fai già le selezioni, almeno in Italia, su quanto alto sei, quanto grosso sei, e io parto da questo livello qua. Mentre una volta eri 1,70 m, 1,75 m, 1,90 m, 2 m. Lì io lavoravo su di te, quindi lavoravo sulla tecnica. La tecnica è quella che mi determina, sia in tutti gli sport, l'essere il campione, non essere il campione o diventare bravo, non essere bravo. Cioè, e fare spettacolo soprattutto, perché con la tecnica tu fai spettacolo, con la fisicità è fine a se stessa. Ah, non c'è nessun dubbio. Questo riguarda molte altre discipline, ma il fatto che riguarda il rugby, certo. Poi mi pare che in campo si finisca per vedere questo. Certo. Sicuramente sì. Sia questo e quello, naturalmente è il campione. L'ultima è questa, visto che appunto se si storicizza questo momento del rugby italiano, non è poi quello che hanno cercato di dipingerci per ragioni di marketing in questi giorni, ha prospettive a parer tuo di miglioramento? Cioè, perché insomma, qualche anno fa c'era stata quella vittoria in Francia, c'era stata un'euforia sfrenata, l'ammissione al 6, insomma il 5 nazioni che diventa 6 per accogliere l'Italia, eccetera eccetera. Adesso mi sembra che segnali abbiamo in prospettiva? Allora, abbiamo i segnali molto semplici. C'è la Celtic League che dovrebbe partire prossimo anno, sì. Due selezioni italiane dovrebbero, condizionale sempre, entrare nel mondo anglosassone, quindi Irlanda, Galles e Scozia. Per adesso sono due club, personalmente io sarei per l'idea di due super club, come può essere stata le Zebre a Milano, i Lupi a Roma, sì, e i sì. Doggi nel Veneto, sì. Dove raggruppavi un numero di club, i più grossi, e prendevi il meglio da ogni club e lì portavi questa selezione a incontri internazionali, dove ottenevi ottimi risultati tra le altre cose. E poi lavorerei sul settore giovanile, che secondo me è stato preso di mira da chi dovrebbe condurre lo sport. Intensificando, se ho capito bene, la preparazione tecnica e non solo quella atletica. No? Io direi principalmente quella tecnica. Caro bioarchitetto, io ringrazio davvero di questa straordinaria partecipazione. Io ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori. Siamo partiti, come ricorderete, da un argomento hard, e con un altro argomento hard oggi chiudiamo, sia pure di tutt'altro segno. Massimiliano Castellani, giornalista di Avvenire, ha dedicato tempo e spazio da anni a questa parte per approfondire le tematiche relative alla salute, anzi alla mala salute in rapporto allo sport e ad alcuni drammi recenti e non solo. L'ultimo suo libro, appena uscito per Selene Edizioni, si chiama Il morbo del pallone, Gehrig e le sue vittime. Da Gianluca Signorini ad Adriano Lombardi, i capitani di lungo corso di Genoa e Avellino, passando per nomi minori, meno celebri, di un calcio in lotta anche contro la SLA. Sono questi alcuni dei casi più scottanti, per l'appunto, di questo dossier. L'autore ha raccolto, assemblato e aggiornato 10 anni di indagini giornalistiche con questo lungo viaggio nei meandri del pallone malato, che secondo i dati al centro dell'inchiesta del procuratore torinese Guarignello ha causato oltre 50 vittime tra i calciatori. Eroi meno noti e meno noti che da veri campioni, leggo nel comunicato, non hanno smesso di sperare nell'aiuto della ricerca, ed è anche per questo motivo che gran parte del ricavato della vendita del libro, prezzo di copertina 14,50, sarà devoluto all'ISLA. Vi ricordo, Massimiliano Castellani, Il morbo del pallone, Gehrig e le sue vittime. Non crediate ad una lettura piacevole, natalizia, anzi, ma questo è un documento su cui è il caso forse ogni tanto di riflettere. Credete invece alla qualità e al divertimento della lettura che segue. È una lunga lettera dell'avvocato Marco Bordoni di San Lazzaro di Savena, che a proposito del tema Balotelli l'ha presa un po' di lontano, l'ha presa con una circonvallazione elegantissima e dotta in termini culinari, e sentite cosa ha scritto. Gentile Garanzini, il tortellino purtroppo non tutti lo preparano come si deve. Nella Guelfa Bologna si custodisce il dogma: lombo di maiale, prosciutto, mortadella, parmigiano reggiano. Ma già quegli eretici dei ghibellini dei modenesi violano la ricetta con sorprendente disinvoltura. Lombo di maiale o altre carni? Parmigiano stagionato 3 anni o semplicemente 18 mesi? C'è da fremere al pensiero della nostra secchia rapita, prigioniera da 500 anni nelle mani di quei barbari. Altrove poi dilaga l'anarchia, i romagnoli ci mettono carne di manzo, le menti dei villici ferraresi ottenebrate dalla nebbia che le opprime l'inverno e delle zanzare che le dissangua l'estate giungono alla perversione della zucca. Ma da fuori, fra i mille insulti a sua maestà il tortellino, uno solo si riconosce, quello scuro al tartufo. Tutti gli altri sono uguali. Pensavo a queste questioni sentendo alcuni interventi alla sua trasmissione sull'incredibile caso Balotelli e mi chiedevo quanti nella nostra società siano a conoscenza della comprovata infondatezza scientifica del razzismo, in quanto sappiano che gli esseri umani come i tortellini sono fatti con ricette, patrimonio genetico, i cui ingredienti sono solo in minima parte visibili dall'esterno. Io, lei, Balotelli e purtroppo qualunque ignorante che urli allo stadio, siamo biologicamente identici al 99,7%, che deriva dal fatto che tutti discendiamo dalla stessa persona fisica, una nonnina comune vissuta circa 150.000 anni fa. Il genere umano, quindi, è una specie giovane con una bassissima variabilità genetica, circostanza confermata dal fatto che tutti noi siamo interfertili, il che è una banalità per il senso comune, ma non lo è affatto dal punto di vista scientifico. Quel restante 0,3 della nostra ricetta coinvolge differenze che riguardano per la maggior parte il ripieno, genotipo, e solo in minima parte la sfoglia, fenotipo. Mi chiedo se la cultura scientifica di questo paese consenta ai suoi abitanti di rendersi conto che un pregiudizio basato sul colore della pelle non ha maggior fondamento scientifico di uno basato su altre differenze che distinguono le popolazioni umane, il gruppo sanguigno, l'RH, la tolleranza ai latticini, la formula dei globuli rossi, e che non si vedono all'esterno. Sarebbe davvero strano se il tortellone con la zucca, il cappelletto romagnolo, il tortellino bolognese e quello modenese ritenessero di essere la stessa cosa perché hanno la sfoglia diversa dal tortellino al tartufo. In conclusione, o troviamo un nome a ciascun singolo tortellino, perché ogni ripieno, seppur in misura infinitesimale, è diverso dall'altro, o ci mettiamo il cuore in pace e ci rassegniamo all'idea che i tortellini si assomigliano un po' tutti, che nessuno usurpa questo nome ed è in fondo una questione di gusti, non avendo senso fare distinzioni. Visto che quelle che io le ho esposto non sono opinioni ma solide verità scientifiche, mi piacerebbe venisse ribadito più spesso in tutte le sedi possibili che la questione del razzismo non si gioca solo sul discrimine pure esistente fra bontà e cattiveria, ma anche e soprattutto su quello fra ignoranza e scienza. Le faccio dono quindi di questa metafora culinaria e la invito a usarla senza diritti d'autore, se lo vorrà, nella sua trasmissione. È esattamente quello che ho fatto, ringraziando dunque l'avvocato Marco Bordoni, ringraziando in regia Peter Bescapè e Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio a tutti.